5A. Ascolta e rispondi. 1. Che cosa scrivi a Giovanni? Gli scrivo una email. A chi scrivi un'email? La scrivo a Giovanni. Scrivi a Giovanni un'email? Sì, gliela scrivo. 2. Che cosa chiedi al vigile? Gli chiedo un'informazione. A chi chiedi un'informazione? La chiedo al vigile. Chiedi al vigile un'informazione? Sì, gliela chiedo. 3. Che cosa comunicherai allo studente? Gli comunicherò la data d'esame. A chi comunicherai la data d'esame? La comunicherò allo studente. Comunicherai allo studente la data d'esame? Sì, gliela comunicherò. 4. Che cosa consegnerai al signor Rossi? Gli consegnerò la documentazione completa. A chi consegnerai la documentazione completa? La consegnerò al signor Rossi. Consegnerai al signor Rossi la documentazione completa? Sì, gliela consegnerò domani.